Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siamo a mercoledì 8 ottobre del 2025, mercoledì dalle 10.30 in poi per un paio d'ore di musica live parte una trasmissione che si chiama semplicemente Città Fujiko Live Club. Naturalmente Nevio al microfono, colui che vi sta parlando, per cercare di spiegare un po' quello che ascolterete. Ma innanzitutto bisogna dire che, come sempre, anche oggi Città Fujiko Live Club inizia con una novità, ed è una novità veramente, veramente molto, molto, molto bella. Soprattutto per chi come me più o meno ha vissuto, naturalmente quell'epoca, perché quello che vi propongo oggi è la riproposizione di un album che ebbe un grandissimo successo all'inizio degli anni 70. L'album si chiama Mad Dogs and Englishmen, quello originale, e invece si chiama Mad Dogs and Englishmen Revisited, quello che vi propongo quest'oggi. Perché? Perché una band che io amo tantissimo e che non smetterei mai di farvi ascoltare, vale a dire la Tedeschi Trucks Band, dopo aver rivisitato quel capolavoro di Derek and the Dominos che si chiama Lila, insieme a Trey Anastasio nel 2019, nel 2015 registrò questa riproposizione dell'album del 1970, che era un album live di Joe Cocker, un doppio vinile, che ebbe un grandissimo successo. Joe Cocker, come molti di voi sapranno, fu lanciato sul mercato, diciamo così, dal Festival di Woodstock, e la casa discografica assemblò in fretta e furia, in seguito a questo successo, un tour che non è che fosse proprio organizzato alla perfezione. Per avere ulteriori chiarimenti su quello che sto dicendo, vi consiglio di cercare un film omonimo, Mad Dogs and Englishmen, dove veramente ne succedono di tutti i colori. Comunque, l'11 settembre del 2015 al Locken Festival di Harrington in Virginia, la Tedeschi Trucks Band, più una serie infinita di ospiti, rifece quasi totalmente. Mancano alcuni pezzi, fra cui una versione di Honky Tonk Woman che è veramente favolosa, peccato che non ci sia, ma ripropone quasi integralmente appunto quell'album, insieme a, ho già detto, a una serie di personaggi più o meno importanti, ma sicuramente tutti ad altissimo livello. E la dimostrazione arriva già col primo brano che ci andiamo ad ascoltare, un brano che è stato scritto da Dave Mason per i Traffic, si chiama Feeling Alright, e guarda caso la Tedeschi Trucks Band lo esegue in questo caso insieme all'autore, proprio Dave Mason. Ce l'andiamo ad ascoltare, Tedeschi Trucks Band, Feeling Alright. So it seems I got to leave. guess I'm here to stay. Someone come along, take my place. I give my name and yes, a beautiful place. Come on, sing it. All right. All right. I'm not doing good myself. È innegabile che il suono della Tedeschi Trucks Band sia fortemente influenzato da quello di Mad Dogs and Englishmen, e in questo caso è ulteriormente evidente questa mia affermazione. Però la versione originale di Mad Dogs and Englishmen non aveva quella chitarra straordinaria di Derek Trucks che abbiamo ascoltato in questa Feeling Alright. C'è da dire, facendo un passo indietro, che in realtà l'album si chiama Tedeschi Trucks Band and Leon Russell Presents Mad Dogs and Englishmen Revisited at Locken. E vale a dire che insieme alla Tedeschi Trucks Band c'è un personaggio che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, che rispondeva al nome di Leon Russell, che era stato il direttore musicale di quella kermesse, di quel carrozzone appunto che fu Mad Dogs and Englishmen, personaggio tutto fare, suonava il piano, la chitarra, il basso, cantava, produceva, faceva un po' di tutto sempre ad altissimi livelli e appunto insieme alla Tedeschi Tracks Band rivisita questa Mad Dogs and Englishmen che già di sé è un album fantastico, con l'aggiunta appunto, dicevo, della chitarra di Derek Trucks, diventa veramente imperdibile. E tutto si è svolto all'Oaken Festival, un festival che si svolge a Oak Ridge Farm ad Arlington in Virginia. È iniziato nel 2013 ed è ancora in giro, ma si è fermato un paio d'anni nel 2020-21 per evidenti motivi di epidemie. È un festival che vede sempre in scena molte jam bands, per cui è molto valido, diciamo così. A questo punto mi viene facile l'aggancio con i festival, ce ne sono tantissimi in giro per il mondo, ci ascolteremo alcune registrazioni effettuate in questi festival in questa prima parte della trasmissione. Ed iniziamo da quello che, con un termine che a me proprio inorridisce, è la madre di tutti i festival, sarebbe a dire il Festival di Woodstock. Non starò a spiegarvi di cosa si tratta, è talmente famoso che non ha bisogno delle mie parole. Però c'è da dire che uno degli errori più grossi che John Fogerty, leader dei Creedence Clearwater Revival, ha fatto nella propria carriera sia stato quello per lunghissimo tempo di negare sia la musica che le immagini della loro presenza a Woodstock, che infatti molti non si ricordano che anche i Creedence Clearwater Revival furono a Woodstock e fra parentesi furono delle band più pagate perché al momento erano sulla cresta dell'onda. Loro, come sapete, vengono dal Cerrito, California, fratelli Fogerty, Tom e John, quello che conta, e appunto con questo veto, secondo me, John Fogerty si è veramente ha fatto un grosso errore. Grosso errore che è stato rimediato nell'agosto del 2019 con la pubblicazione di questo Live at Woodstock, che è stato registrato proprio a Bethel, nello stato di New York, il 17 agosto del 1969, quindi 40 anni prima. Ci andiamo ad ascoltare quello che è stato uno dei primi singoli di successo dei Creedence, un brano molto lungo, una cover di un brano di Dale Hawkins, molto lungo, tanto che nel singolo era diviso in due parti, part 1 e part 2, naturalmente nelle due facciate del singolo a 45 giri. Si chiama Suzy Q, Creedence Clearwater Revival at Woodstock. Shoulder. true. Say that you'll be true and I believe you. Choose a hero. Say that you'll be mine. Say that you'll be mine. Say that you'll be mine, baby, all the time. Choose a hero. Yeah. È incredibile come ci siano delle bands che sono state famosissime nel corso degli anni, completamente o quasi del tutto dimenticate. Una di queste si chiama ancora Grand Funk Railroad. Loro iniziarono come trio in quel di Flint nel Michigan, poi dal 1973 sono diventati un quartetto. Il leader, cantante e chitarrista che ci siamo ascoltati in questa Heartbreaker, Mark Farner, ha però lasciato la band nel 98. Gli altri hanno continuato con non un chitarrista, non due, ma due chitarristi e un cantante per sostituire appunto Mark Farner. Il loro primo album si chiama semplicemente Live Album, accreditato a Grand Funk, senza il Railroad, è stato registrato al festival all'Atlanta International Pop Festival in Georgia nel giugno del 1970. E l'Atlanta International Pop Festival è durato solamente due anni, esattamente nel 1969 e nel 1970, appunto anno in cui è stato registrato questo album dei Grand Funk. Centinaia di migliaia di persone, spare di 200-250 mila persone a botta. E difatti le autorità della Georgia poi hanno negato ogni autorizzazione per il proseguo di questo festival per paura di problemi di ordine pubblico, come spesso viene accreditata quando ci sono delle negazioni di autorizzazione. Mean mistreater, you make me cry. E da un festival che è durato solamente due anni passiamo direttamente al più longevo di quelli che vi propongo oggi, ma anche un longevo in senso assoluto, oserei dire. Infatti ha iniziato nel 1961, denominatosi National Jazz Festival. Era organizzato da colui che aveva fondato anche il Marquee Club, stiamo parlando di Inghilterra naturalmente, Marquee Club è uno dei locali storici di Londra. E poi questo festival, che inizialmente era locato a Richmond, è poi passato attraverso Windsor e altre location intorno a Londra, fino a fermarsi a Reading, di lui, del Reading Festival che sto parlando. Ci sarebbero migliaia di registrazioni effettuate in questo festival, appunto perché è longevissimo, non so se esista questo termine, ma l'ho detto, e ho scelto per voi una band che arriva da Portland ed è attiva dal 1994. Ha avuto un grande successo col loro terzo album, che si chiama 13 Tales from Urban Bohemia, e con il singolo anche Bohemian Like You. Molti di voi avranno già capito che sto parlando dei Dandy Warhols. Hanno fatto una manciata di album live e molti singoli con brani live. Questo è uno di quelli. Get Off è il brano di punta in studio, e due canzoni registrate al Reading Festival il 27 agosto del 1999. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Not If You Were The Last Junkie On Earth, nemmeno se tu fossi l'ultimo junkie sulla terra. Dandy Warhols al Festival di Reading. live forever. And I said, that's if you want to say that. Maybe. Just wanna fly, baby. Here's your roof, you and pay. The morning rain as it soaks you to the bone. Maybe I just wanna fly, but the rivers don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe all the same as me. Altro festival molto longevo, iniziò negli anni 70 davanti a 1500 persone fino ad arrivare alle centinaia di migliaia, anche in questo caso, soprattutto quando ci sono gli Oasis. Si chiama Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts. è un festival globale, ci sono, oltre alla musica, c'è la danza, la commedia, il teatro, il circo, il cabaret e tantissime altre cose. E appunto iniziò come una festa hippie con pochissimi personaggi, con pochissime persone, fino ad arrivare alle centinaia di migliaia di oggi, e soprattutto quando c'erano gli Oasis, che erano al Glastonbury Festival il 26 giugno del 1995. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Roll With It, incluso in un singolo, anzi no, il singolo si chiama Roll With It, scusate, e questo Live Forever è incluso appunto in questo singolo, uno dei tanti singoli con canzoni dal vivo che hanno fatto gli Oasis insieme a due album live. Probabilmente ce ne sarà un terzo, perché con la riunione che è ancora in atto vedrete che prima o poi arriverà un altro album live. E si parla di un concerto italiano nell'anno prossimo, vedremo quello che succederà. Personalmente non è che mi turbi più di tanto, ma gli Oasis sono sicuramente una delle band più famose del pianeta. Ma i festival non sono tutti appannaggio del mondo anglosassone, ce ne sono anche nella vecchia Europa continentale e anche in Italia, di questo parleremo un'altra volta, perché andiamo con l'ultimo brano. Ce ne sono sempre ancora tantissimi festival, lo sapete meglio di me. Per quel che riguarda il Festival di Montreux, ci sono state trasmissioni a parte, per cui passiamo direttamente a un festival olandese che si chiama Pink Pop. Si chiama Pink Pop perché viene di solito fatto nel weekend di Pentecoste in Olanda. Pentecoste, che in olandese si chiama Pinkerstern, e quindi da lì Pink Pop Festival. Nel 1994, è attivo dal 1970, ma nel 1994 decise di vendere solamente fra virgolette 60.000 biglietti per evitare problemi di ordine pubblico anche in questo caso. Ci andiamo ad ascoltare una band che è diventata famosissima in Italia perché il buon Vasco Rossi ne ha tradotto e ripreso uno dei brani più celebri degli Emotional Fish, di loro che sto parlando, dal Celebration Live EP, che è stato registrato proprio al Pink Pop Festival in Olanda del 19 maggio del 1991. Il brano si chiama Celebrate. Everybody dancing now. Telephone without you. right, is everybody in the mood for dancing then? This party's over, I'm going home. Please. Città Fujiko Live Club, seconda parte. Siamo all'8 ottobre del 2025 e la seconda parte inizia sempre con la novità che vi propongo anche quest'oggi, una novità veramente per me fantastica. Tedeschi Trucks Band e Leon Russell presentano Mad Dogs and Englishmen rivisitato, l'ho detto in italiano così evito di fare figuracce. E appunto la rivisitazione di quel masterpiece, oserei dire, che era appunto Mad Dogs and Englishmen di Joe Cocker, uscito negli anni 70, nell'agosto del 70 per la precisione, e rifatto in questa occasione l'11 settembre del 2015 all'Hockenheim Festival di Harrington in Virginia dalla Tedeschi Trucks Band, da Leon Russell, che era nella versione originale del disco. E infatti questo brano Delta Lady è proprio scritto da Leon Russell, e ci sono un sacco di ospiti, come vi dicevo, non ultimo Chris Robinson dei Black Crowes, ma lui in questa occasione non ce lo siamo sentiti perché il brano Delta Lady è cantato da John Bell dei Widespread Panic, altra grande band del movimento jam mondiale, oserei dire proprio mondiale. Dateci almeno un ascolto a questo fantastico disco, che ha un solo difetto: è singolo. Ma molto velocemente, perché nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva sempre Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e naturalmente ci sono tantissime cose registrate in questo giorno, per cui il criterio di scelta è sempre quello, un brano per ogni decade, e andiamo ad iniziare subitissimo. Iniziamo dal 1963. Non sono un esperto di jazz, anzi oserei dire proprio di no, perché conosco due o tre nomi a caso, diciamo così, ma sono nomi che contano, e uno dei miei beniamini è Mr. John Coltrane, che è veramente fantastico, uno dei musicisti più influenti di tutta la storia della musica totale, rock, jazz, classica, eccetera eccetera. Lui iniziò a suonare in una band durante il servizio militare in Marina, però siccome la band era di tutti bianchi, lui era accreditato come ospite, però alla fine della naja, chiamiamola così, lui era diventato il leader della band, e ci deve essere un perché. Dopo il congedo ha suonato con tutti i migliori musicisti, i migliori jazzisti in assoluto: Don Cherry, Thelonious Monk, Miles Davis, giusto per dire qualcuno. E il suo album di debutto, che si chiama Coltrane, è del 1957, mentre la registrazione che ci andiamo ad ascoltare è effettuata al Birdland di New York City, è dell'8 ottobre del 1963. e si chiama semplicemente Live at Birdland. L'album e il brano invece si chiama The Promise, John Coltrane. Thank you. oltre a John Coltrane, naturalmente al sax, erano della partita, diciamo così, McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al basso e Elvin Jones alla batteria. Come dicevo, non sono un grosso esperto di jazz, ma questi sono nomi che, come si suol dire, prendono del posto, nel senso che sono importantissimi nell'ambito appunto della musica jazz. Live at Birdland è stato registrato nell'omonimo locale di New York City, era l'8 ottobre del 1963, il brano si chiamava The Promise. Arriviamo agli anni 70 con una delle mie grandi passioni. Si chiamano tuttora Yes, ma c'entrano poco o niente con quello che era la mia passione. Sto parlando degli anni 70 e primi anni 80. Yes, del quale non è rimasto nessun membro originale, loro sono attivi dal 1968, perché Stevie Howe entrò, il chitarrista è l'unico rimasto dei membri storici, diciamo così, ma non è un originale, entrò nel secondo album. Hanno fatto diversi album live, parecchi, fra i quali uno che è assolutamente un capolavoro ed è una pietra miliare nella storia della musica rock live, che si chiama Yes Songs, e niente, questo si chiama invece The World is Live, è un triplo cofanetto, un triplo CD con registrazioni effettuate fra il 1970 e il 1988. Con parecchie delle formazioni, appunto degli Yes, ce n'è anche con quelli che erano i Buggles, un connubio che durò poco o niente, per fortuna. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato al County Coliseum Arena di Oakland in California, dalla parte opposta della baia di San Francisco, l'8 ottobre del 1978. È l'unione di due brani, il primo si chiama Future Times, il secondo si chiama Rejoice. Loro sono i grandissimi Yes. Thank you. pick it up again. Time flies on and on it goes through the setting sun. Carry round and round and round and round until it comes to carry you home. Rejoice forward at this feeling. The white eagle soars. He goes early winter change, don't steal light, conquering time to seize, spread the harvest please, let our hour of passion gently hold our heads on high with you. A big dipper. Credo e spero che non abbia bisogno di presentazioni. Peter Gabriel, dopo la sua fuoriuscita dai Genesis nel 1975, ha avviato una carriera solista densa di soddisfazioni. Il suo quinto album, che si chiama So, è stato pubblicato originariamente nel maggio del 1986. In occasione del 25esimo anniversario è stata pubblicata una deluxe edition che consisteva di 3 CD. Il primo era naturalmente la rimasterizzazione dell'album originale, e il dischetto 3 e 4 invece contenevano un concerto che Peter Gabriel ha fatto all'Icabetto di Atene in Grecia l'8 ottobre del 1987. Questo però è ultimamente reperibile anche per proprio conto, quindi non importa che compriate tutto il box set. Il brano che ci siamo ascoltati, famosissimo, si chiama Sledgehammer, era l'8 ottobre 1987. Una cosa un po' più di nicchia, chiamiamola così, arriva adesso tramite una band, un trio che arriva dal Massachusetts, è stato attivo dal 1984 al 1997 con diversi cambi di formazione, poi si è riformato nel 2005 fino ad oggi con la formazione originale. Sto parlando del Dinosaur Junior, uno dei classici della musica alternativa americana, con Jim Mays, il chitarrista, cantante, leader e padrone assoluto della band, che ne dicano gli altri due. C'è un album che si chiama Without a Sound, che è stato pubblicato in Australia in un'edizione speciale che si chiama Kiblin, con annesso un dischetto live. Sono solamente 5 brani, ma tutti molto interessanti. Registrato al Brixton Academy di Londra 8 ottobre 1994. Sentirete che l'influenza di Neil Young, secondo me, è più che palese. Dinosaur Junior, era il 1994, il pezzo si chiama Get Me. On a day, maybe I Molto elettrici come sempre, Dinosaur Junior, il brano che ci siamo ascoltati si chiama Get Me, contenuto in una versione australiana particolare dell'album Without a Sound, versione doppia rinominata Kevlin con la parte live, registrata alla Brixton Academy di Londra l'8 ottobre 1994. Sempre più velocemente perché il tempo ormai sta veramente correndo. Per la serie A volte ritornano, torna in scena quest'oggi Stevie Howe, stavolta in versione trio, libero dai lavori con gli Yes, con gli Asia o con chi altro. Fondò questo trio insieme a suo figlio, scusate, che si chiama Dylan alla batteria e Ross Stanley al Hammond, quindi un trio abbastanza anomalo. Traveling è il loro primo e unico album live, ne hanno fatti tre in tutto ed è stato registrato in diverse occasioni. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato l'8 ottobre del 2008, tutti otto, e è stato registrato al Barrymore's Music Hall di Ottawa in Canada. Si chiama He and Heavy, He's My Brother, Stevie Howe Trio. Thank you. Stevie Howe Trio con un fraseggio chitarristico di uno dei miei chitarristi preferiti, appunto Stevie Howe. Il brano si chiama He Ain't Heavy, He's My Brother. È stato registrato a Ottawa in Canada l'8 ottobre del 2008. Prima di passare al brano che conclude sia Ricordi Today che Città Fujiko Live Club di oggi, vi ricordo appunto che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, 2 ore di musica dal vivo quasi ogni mercoledì dalle 10.30 in poi, 103,1 i MHz di modulazione di frequenza stereofonica con cui potete ascoltarci in città e poco oltre, ma c'è anche il DAB da qualche tempo che ha espanso il nostro raggio d'azione, e do il benvenuto a tutti gli ascoltatori nuovi, e poi naturalmente il web col quale potete ascoltarci in tutto il mondo tramite l'apposita app che potete scaricare tranquillamente e gratuitamente dal nostro sito. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento per mercoledì prossimo e vi lascio in compagnia di una delle band più sconosciute ma che a me piacciono tantissimo. Si chiamano Reef, vengono da Glastonbury, se ci ricolleghiamo ai festival della in precedenza, e hanno un super vocalist che si chiama Gary Stringer, una voce veramente incredibile. Si sono sciolti nel 2003 ma si sono riformati nel 2010 nella formazione originale, dopodiché hanno fatto 3 album live. Questo si chiama Lives and Ives, è stato registrato a Guildhall appunto di St. Ives in Gran Bretagna l'8 ottobre del 2015. Il brano che ho scelto per voi forzatamente a causa del tempo si chiama Naked, lo ripeto, loro si chiamano Reef. Ciao a tutti da Nevio. Thanks for listening to us tonight. Thanks for tuning in.